Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 45 di Picchi di Frequenza ci accompagna anzitutto, come promesso, nella seconda parte dell'incontro, dell'intervista realizzata a Martino Iniziato con Anna Scuttari dell'Eurac Research, che ci parla di un cammino piuttosto particolare. Avremo poi, prima di cominciare con questo blocco, le news della settimana, incontri, eventi, notizie di montagna e infine un appello un po' particolare, perché il prossimo 2 dicembre va in scena una presentazione un po' curiosa, va in scena a Parma e vogliamo parlarne insieme. Apriamo quest'angolo delle notizie con alcune informazioni di servizio, perché sono stati realizzati 7 interventi sulle vie ferrate della Lombardia, ne danno comunicazione le guide alpine regionali, 6 messe in sicurezza ed una smantellata. Entrando nello specifico, la via ferrata del Pizzo Badile Camuneo, che era forse quella messa peggio secondo il censimento realizzato lo scorso anno, è stato interamente riattrezzato. La via ferrata Erminio Arosio al Corno di Grevo, in cui sono state sostituite diverse parti del cavo metallico sul tratto che accompagna verso la vetta. La direttissima della Grignetta, anch'essa con ancoraggi danneggiati e rimpiazzati. La ferrata dello Scarettone, questa volta sempre in Grigna Meridionale, di cui è stato sostituito il cavo plastificato con una catena. Il sentiero Cecilia, e ci troviamo ancora una volta nel gruppo delle Grigne, di cui è stato effettuato una piccola manutenzione su un breve tratto danneggiato. Il canalone Bobbio Arresegone, detto anche sentiero attrezzato Carlo Villa, sui piani d'Erna, in cui è stato sostituito appunto anche qui il cavo metallico e sistemati alcuni degli ancoraggi. I lavori sono stati realizzati nell'ambito di promozione della montagna e delle sue professioni per l'anno 2016. Trovate l'articolo completo per maggiori dettagli su planetmountain.com. Mentre invece inaugura su altitudini.it, un altro dei portali che a cui più di una volta abbiamo fatto riferimento in questo nostro angolo di notizie e segnalazioni, una vera e propria inchiesta. Cominciamo da qui. C'era una volta, in una valle circondata da alte montagne, un villaggio che ogni anno a dicembre veniva sepolto dalla neve, avvolto dal silenzio, da aria pura e frizzante, sempre illuminato da un sole accecante in un cielo azzurro sgombro di nuvole. E così fino alla primavera inoltrata. Avete bene in mente questa immagine? Sì, dai, è in tutti i siti web, nelle riviste, nei programmi TV che mostrano la montagna d'inverno. L'immaginario di chi frequenta la montagna, e soprattutto di chi vive di turismo, si alimenta da sempre di queste immagini. Le infrastrutture, l'offerta degli operatori, le strategie commerciali, tutto il settore economico turistico si è strutturato sulla base di un unico modello di sviluppo: l'inverno in montagna con la neve. Ma se l'inverno, ormai alle porte, non portasse la neve, che cosa accadrebbe? Quali conseguenze porterebbe alla montagna? Nel corso dell'anomalo inverno 2015-2016, durante il quale la neve e il freddo si sono fatti attendere oltre ogni più ottimistica speranza, la redazione di Altitudini ha proposto un'interessante riflessione che ora vogliamo rilanciare. L'articolo originario ha come titolo "Non aspettare l'inverno, forse non arriverà", quello di quest'oggi, data 18 novembre, in realtà, ha come titolo "Evoluzione senza neve, adattarsi al cambiamento". Ci spostiamo invece su Mountain Blog, il titolo questa volta è "Lombardia, per la prima volta catasto e legge sui sentieri". Si tratta di una norma che vede come destinatari comunità montane, unioni di comuni, comuni e aree regionali protette bla bla bla dalla legge regionale. L'istituzione del catasto è il fondamento della proposta di legge che vuole promuovere la Lombardia a partire dalla conoscenza del suo patrimonio ambientale e culturale. L'articolo completo è appunto su mountainblog.it e la notizia è che nasce il Codice dei Sentieri, una legge per normare la rete escursionistica, definendo i percorsi e chiarendo le competenze degli enti gestori, programmando la manutenzione e la creazione di nuovi sentieri. Tratti positivi, tratti negativi, tra luci ed ombre, era una segnalazione che non potevamo negarvi. Mentre ci spostiamo sul sito internet della casa editrice Donzelli di Roma, perché a cura Antonio De Rossi, anzi a firma Antonio De Rossi, esce un saggio dal titolo La costruzione delle Alpi, il Novecento e il Modernismo Alpino. Un affresco così che comincia all'inizio dell'ascesa alpinistica, della scalata delle grandi vette dei 4.000 alpini, quindi siamo a metà, nella seconda parte del 1700 e che giunge insomma fino ai giorni nostri. Questo capitolo si dedica in particolare al Novecento, quindi siamo all'indomani del primo conflitto bellico ed è appunto il capitolo di una serie di volumi curati proprio da De Rossi. Il prezzo non è bassissimo, ma è un volume anche di un certo impegno, perché è di oltre 600 pagine. Prima di chiudere quest'angolo di segnalazioni, vi invito anche ad un piccolo gioco. È appena arrivato un plico di libri, i titoli sono Valli Bergamasche, Falesi e Vie Moderne. Il secondo si chiama, fatemelo trovare, Canton Ticino, Pareti, Vie Sportive, Moderne e Trad. Mentre il terzo, L'arte della slackline, materiali e tecniche per la pratica della trickline, longline, highline. Sono tre volumi editi da Versante Sud. Se ci scrivete qual è quello di vostro interesse, noi ve lo recensiamo entro la prossima settimana. Mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade. Diz minha terra sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Come promesso non più di 7 giorni fa, ritorniamo sul lavoro svolto dall'Eurac Research e l'intervista a cura di Martino. In alcuni tratti chi vorrà fare questo percorso troverà informazioni molto dettagliate e sicuramente il logo originario della Via Alpina Gialla. In altri tratti dovrà fare riferimento alla segnalettica standard del Club Alpino Italiano piuttosto che del luogo. Certo. Il punto di forza è anche che sull'applicazione, diciamo, che lanceremo avrà modo di trovare corrispondenza, diciamo, tra il percorso della Via Transalpina e la segnaletica esistente. Quindi da un certo punto di vista il pericolo di smarrirsi diventa molto limitato. Certo, beh, ma poi mi permetto di dire che insomma il fatto di avere quest'app, che aspettiamo a questo punto con ansia il 1° dicembre, ma voglio dire, non è per forza un male che ci si perda ogni tanto, chiaramente in condizioni di sicurezza, ma è una bella sfida anche a quel punto per il camminatore, per chi percorre l'itinerario, quello di cercare di costruire il proprio percorso al meglio. Forse è anche un po' questo lo spirito che emerge dal progetto, appunto, il fatto di aver censito questo percorso. percorso, di averlo reso vivace, vivo, ma poi lasciando al pellegrino, insomma, a chi appunto vorrà percorrerlo, anche il divertimento e la passione di riscoprirlo e di appunto di renderlo vivo attraverso il cammino. Le volevo Come chiedere no. ancora delle cose rispetto appunto agli altri cammini, e anche dal suo punto di vista, dell'esperienza che avete fatto, c'è un ritorno ormai anche al turismo lento, al turismo a piedi, a una forma più sostenibile o comunque legata appunto ad una vivibilità degli spazi del territorio che riscoprano una dimensione appunto originaria, come dire, un po' più appunto, magari meno veloce, ma forse un po' più originale? Sì, io credo di sì, credo che nel nostro tempo il bene più raro e più scarso sia proprio il tempo, la disponibilità di tempo, quindi immaginare un viaggio nel quale o per se stessi e i propri compagni di viaggio si possa avere più tempo è una cosa di cui abbiamo bisogno e che riscontra sempre più domanda, sempre più interesse. Quindi sicuramente, ma lo si vede anche dal numero di percorsi che si stanno sviluppando, al di là dei percorsi, diciamo, tradizionali, come possono essere la Via Francigena o il Cammino di Santiago, che hanno conosciuto negli ultimi decenni una grande crescita, no? Quelli, diciamo, storici, motivati anche in parte da motivazioni religiose, però vediamo che anche altri cammini, come ad esempio la Monaco-Venezia, sia a piedi sia sulla ciclabile, ma anche l'Alpe Adria, la Via Claudio Augusta, cioè tutte queste vie stanno iniziando a prendere piede. Il fatto stesso che ci sia quest'anno, sia stato dichiarato l'anno dei cammini d'Italia, mostra come l'attenzione è sempre più forte verso questo tipo di vacanza. Certo è che se da un lato si fa una vacanza lenta, dall'altro è anche vero che in ogni posto si sta poco tempo, quindi è poi responsabilità dei luoghi essere in grado di promuoversi, usare questi percorsi come un palcoscenico per riuscire a stupire i propri turisti e farli tornare Farli magari tornare in situazioni con altre migliori. modalità. Certo, certo. Da questo punto di vista, leggevo quest'estate, trovandomi in zona, che la via Claudio Augusto ha visto un'esplosione anche per quanto riguarda il percorso ciclabile. Insomma, sono anche appunto queste diverse forme di turismo sostenibile, leggero, insomma, a seconda della definizione, però davvero ci sono dei numeri importanti, interessanti, che vanno tra l'altro anche a coprire fasce di pubblico diverse, da magari fasce più adulte o appunto meno giovani, ma anche giovani famiglie, bambini, eccetera. Quindi, insomma, di buon auspicio per il futuro. E per chiudere la nostra chiacchierata, le chiederei proprio una risposta sul futuro. Il convegno ha presentato un po' la conclusione di questo anno e mezzo di lavoro in cui avete costruito questa infrastruttura tecnologica che però permette di percorrere un cammino bellissimo. Di qui in avanti, come proseguirà, se proseguirà? Sì, questa è una bellissima domanda perché noi siamo molto convinti che la continuità sia uno dei punti forti per poter portare una via come la Via Transalpina verso il successo. Allora, proseguiremo i nostri lavori su diverse direzioni. Una di queste è la collaborazione con il Segretariato Internazionale delle Vie Alpine, che sono, come le dicevo, cinque, e con il quale abbiamo collaborato dall'inizio del progetto e continueremo a collaborare. È in corso una ridefinizione della strategia per tutte le vie alpine. Quindi cercheremo di portare il nostro buon esempio della via transalpina anche all'attenzione della Segretariato internazionale per valutare se e come fare ulteriori investimenti sia nel marketing sia nella promozione, e questo è un punto. Dall'altra parte abbiamo cercato di creare continuità anche all'interno del consorzio. Come dicevo prima, il consorzio ha diverse piccole e medie imprese, abbiamo un tour operator, abbiamo uno sviluppatore appunto di questa tecnologia della app e del configuratore del percorso individualizzato, ma abbiamo anche una catena di strutture ricettive specializzata, e quindi tutte queste persone che sono interessate al turismo escursionistico e sono interessate in particolare alla via, si sono impegnate a rimanere a disposizione per altri 3 anni per continuare a sviluppare quello che è la via. Quindi cercheremo sicuramente di trovare finanziamenti, nuovi e diversi per poter proseguire nel cammino. Non abbiamo ancora un finanziamento preciso, stiamo valutando anche la possibilità di cercare finanziamenti sui fondi Interreg, che permetterebbero anche un'infrastrutturazione del territorio, però ancora diciamo. Abbiamo solo la promessa che per i prossimi 3 anni continueremo su base volontaria ad occuparci di questa via, perché ci sta a cuore, chiaramente dopo un Certo. anno e mezzo di lavoro, ci sta a cuore che si trasformi anche in un'adesione da parte degli escursionisti, no? Quello che diceva lei prima sulla disponibilità per tutti, non soltanto per alcuni tipi di escursionisti, è molto vero. Noi siamo partiti con l'idea di fare una via adatta al target dei senior, quindi dei 55 più, Sì, lo ma leggevo. ci siamo resi conto che in realtà fare questo era una grande possibilità per creare una via a disposizione di tutti, quindi non solo per i senior, ma anche per appunto famiglie con bambini di un'età sufficiente per affrontare un cammino in montagna, ma anche altre persone, insomma. Quindi abbiamo cercato di disegnare una via per tutti, e questo credo sia un punto di forza che spero pagherà anche in futuro. Senta, le facciamo molti auguri, ma le chiedo proprio per salutare i nostri ascoltatori quali contatti o strumenti possono utilizzare per rimanere aggiornati. Abbiamo detto un'app dal 1° dicembre e magari le chiedo quale sarà il nome dell'app e se c'è anche uno o più contatti sul web per appunto informarsi e approfondire. Certo, allora i contatti del nostro ente Eurac Research sono quelli che vi dirò in seguito, sono www.eurac.edu come educazione, e il mio contatto al quale potete sempre rivolgervi per informazioni sul progetto è anna.scuttari@eurac.edu. E poi, come diceva lei, ci sarà l'applicazione che sarà scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Android dal 1° dicembre, e avrà per nome Via Transalpina, Quindi così molto come il semplice, nome del perfetto. nostro prodotto. E il sito dedicato appunto alla Via Transalpina, anch'esso a disposizione dal 1° dicembre, con dettagli appunto anche su piccole escursioni della durata di una settimana, con dettaglio chiaramente dei possibili pernottamenti, eccetera, sarà a disposizione sotto l'indirizzo www.via-transalpina.eu. Quindi anche questa fonte sarà una buona fonte di ispirazione. Così potrete vedere i meravigliosi paesaggi che si Che avete incontrano camminando attraversato. su questa via. Sì. Allora, magari arrivederci, grazie mille, arrivederci, a risentirci, anzi, magari fra qualche mese o l'anno prossimo per un aggiornamento sul vostro bellissimo progetto. Ben volentieri, buon cammino a tutti. Grazie. Grazie a lei. E come anticipato in apertura di trasmissione, c'erano un paio di appuntamenti che questa settimana volevo segnalarvi senza che si perdessero nel resto delle comunicazioni di servizio della rassegna stampa. Il primo ha come titolo metanoia. Metanoia è una parola che proviene dal greco e significa profondo mutamento nel modo di pensare, di sentire, di giudicare le cose. Metanoia è anche il nome di un film, un documentario che racconta l'ascesa in solitaria, ancora oggi ineguagliata, sulla parete nord dell'Eiger. L'autore è Jeff Lowe. Ha creato, come dire, delle attrezzature, dei meccanismi che ancora non esistevano, quindi che ha inventato per fare questa ascensione. Il film racconta la sua salita così più significativa e verrà proiettato al piano terra di Milano questa domenica, quindi parliamo di domenica 27 novembre alle ore 21, cinema come sempre in lingua, come sempre ad ingresso gratuito. Piano Terra, che lo ricordo, ha recentemente ospitato proprio lo scorso fine settimana la Due Giorni Nazionale dell'Ape, dopo 40 anni di silenzio tra le sezioni apeine che la storia pareva aver condannato all'oblio. Ci siamo ritrovati a partire dal trekking urbano delle ore 14 di sabato scorso, abbiamo attraversato il centro della città alla ricerca delle vicende di sport e proletariato, quindi tra la vicenda così del socialismo milanese dei tempi del sindaco Filippetti. Siamo stati a Palazzo Marino, siamo stati a vedere, a riconoscere i luoghi delle tanti assalti alle sedi dell'Avanti e poi ancora la tipografia Zerboni, la sede in Santa Maria alla Porta. Abbiamo mescolato queste vicende degli anni 20 dell'unica rivista concorrente della Gazzetta dello Sport con insomma una sorta di deriva psicogeografica all'interno invece delle tante altre storie della Mediolanum antica, di quella medievale, della storia contemporanea della città, appunto. La serata è piacevolmente proseguita appunto per l'appunto al Piano Terra, dove tra reading con l'ultima autoproduzione dell'Ape Milano a proposito di un'antologia di scritti stagione 1921-1926 che per la prima volta dopo un secolo di oblio vengono nuovamente ripubblicati, e accompagnamento di chitarra e fisarmonica, insomma la prima cena sociale che ha effettivamente aperto poi la Due Giorni. Dopo questi momenti di convivialità ci siamo ritrovati nella domenica, abbiamo già avuto occasione, non in picchi di frequenza ma sempre dai microfoni di Radio Onda d'Urto, di presentare quelli che sarebbero stati i temi dell'incontro, e devo dire che è stato effettivamente un incontro assolutamente intrigante. C'è anzitutto da sottolineare che oltre alle sezioni dell'Ape era presente sia il network di Alpinismo Molotov, uno dei blog che spesso utilizziamo all'interno della nostra rassegna stampa di montagna, e il collettivo alpino zapatista di Genova, oltre a tanti insomma individui, singolarità che ci hanno accompagnato. I temi, come anticipato, sono stati quelli di una sorta di mappatura, questa volta non delle nocività ma dei luoghi amici, dei luoghi ospitali, dei luoghi conviviali, l'adozione di un paio di sentieri di cui ci siamo fatti carico. Uno è già il sentiero dell'Ape di Lecco Giorgio Combi, l'altro è un trekking urbano, diciamo così, romano. Abbiamo poi proseguito la nostra riunione, la nostra assemblea, questo consesso di persone attorno alla creazione di un paio di appuntamenti. Il primo sarà nella tarda primavera proprio a Roma, il secondo il campeggio estivo dell'Ape l'ultima settimana probabilmente di luglio. Su questo vi aggiornerò con dovizia di particolari le prossime settimane, non appena verrà pubblicato un report, perché invece l'ultima delle segnalazioni di oggi mi preme particolarmente. Accennavo prima alle vicende di sport e proletariato, che è l'ultimo libro che ho pubblicato per Mursi Editore, non ne abbiamo mai parlato approfonditamente, non lo faremo questa sera, però l'appuntamento appunto è per il 2 dicembre all'Ateneo Libertario di Parma. A partire dalle ore 19 faremo una presentazione assieme a Paolo Masala, che peraltro a breve, faccio un piccolo spoiler, curerà proprio su questi microfoni una rubrica puntate sulla pedagogia dei 4000. Ecco, questa presentazione è un espediente, una grande scusa che così con un pizzico di scaramanzia però volevo condividere con tutti voi, per cercare di dare nuova linfa al tentativo di apertura di una sezione apeina anche in quel di Parma. Voi mi direte, ma che cosa ce lo racconti a fare? Io, questo così è un appello, io vi invito per una volta a darci una mano. Date un'occhiata o al blog sportproletariato.onoblogs.org, se vi piacciono i social media, alla pagina Facebook dell'Ateneo Libertario di Parma, perché l'invito da raccogliere è quello di fare una selezione di tutti i vostri contatti di Parma e dintorni ed invitarli a questa presentazione. Non lo facciamo tanto per noi, lo facciamo perché vogliamo dare una spinta a questi amici, compagni, attivisti, amanti della montagna parmensi a provare a realizzare uno dei loro piccoli sogni, che è quello di ricostituire un gruppo di montagna, di farlo sotto i vessilli dell'Associazione Proletari Escursionisti. Per farlo abbiamo bisogno di una piccola spinta, quindi ripeto ancora una volta, pagina Facebook Ateneo Libertario Parma, trovate l'evento da condividere, altrimenti sportproletariato.noblogs.org. Anche questa puntata, ed era la numero 45 di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi invito a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, appuntamenti, suggerimenti, insomma quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza, dove ci impegniamo settimanalmente a darvi conto delle trasmissioni uscite e a regalarvi il podcast ospitato da Spreaker, e sul social network azzurro all'account @abuzzo3. Io spero vi sia piaciuta, noi come di consueto ci sentiamo settimana prossima sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.